Parenzo, rispondi tu, sai cosa devi fare? Non so chiedere. Sì, dai, su. Sveglia. Pronto? Pronto? Sì, di me. Sono Parenzo, Boso, ciao. Ciao Parenzo, di me. Ma non ho capito, perché non vuoi intervenire alla Zanzara e sei qui a rompere le balle dicendo no, con Parenzo non parlo, con Parenzo non parlo. Ma Parenzo, è un bel momento, ogni volta che da fare qualcosa continuo sempre fuori a mezzi da begara. Se vediamo che mi sono cardiopatico, non posso più incazzarmi, allora non parlo più, ah? Ma non parli più di cosa? Che tutte le volte Cruciani prova a telefonarti, manco fossi un ministro che ci dici di no, scusa, ma che discorsi sono? No ragazzo, io sono di più di un ministro, Ma dai, Boso! Io sono Boso della Lega, sono di più di un ministro, ma stai scherzando, Parenzo? Ti abbiamo chiamato un sacco di volte per venire da noi, eccetera, e tu dici no, io sono di... No, ho telefonato una volta. Una. Come? Una. Vabbè, sei la solita mammoletta che hai paura della battaglia, hai paura, la solita mammoletta sei ormai. No. A parte che adesso hai visto, ormai la secessione non la vogliono più fare, Maroni ha detto basta con la secessione, tutto finito, anche Posi. Ti sento molto male. Sei fuori dalla storia ormai. Eh? Ormai sei fuori dalla storia, Boso. Ma va là, coglione, ma stai scherzando? Ormai sei fuori della storia, come giornalista, come tutto. Ma guarda, ormai sei non conti più niente. Un giornalista che può andare a fare gli scartini, non il giornalista. Puoi fare gli scartini, hai capito? Ti aggiorno, Boso, sul fatto che ormai di secessione non parla più nessuno, devi aggiornarti, è finita quella panzana. Non hai capito niente della vita. È finita quella panzana là. Perché sei assistito. Ma assistito da chi? Tu sei un paio di scartini, tu non sei un giornalista. Ma io ti faccio per chi sei. Ma tu l'hai sentito, Maroni? Tu sei come l'immondizia. Ma sono i puzzi, caro Parenzo. Ma li hai, quello è il pesce, ignorante, quello è il pesce. Ma cos'è stato, Parenzo? Un'interferenza? Cos'è stato? Non lo so, direttorissimo, non lo so. Il signor Boso che si è arrabbiato, non si può... Richiamiamolo dopo. Ma come si permette di chiudermi il telefono in faccia? Ma io non lo so. Maleducato. Ha detto che sei un'immondizia. Rispondi, dopo tre giorni puzza. Quello è il pesce, è anche ignorante, per giunta. Uomo in montagna, signor Boso. Signor Boso è fuori dalla storia ormai, anche la Lega non parla più di secessione. Io vogliamo ricordare pacatamente. Signor Erminio Boso. Detto Obelix. Uomo solitamente molto moderato. Sei un'immondizia, Parenzo. No. Come si permette? Pronto? Sì. Sì, chi parla? Signora Boso? Signora Boso? Chi parla? Signora Boso, buonasera, sono Parenzo. Prima, l'onorevole Erminio, credo erroneamente, ha chiuso il telefono mentre stavamo parlando. Non so niente perché qui adesso questo momento non c'è. Ma lei è la moglie dell'onorevole Erminio, no? Sì. Ah, ecco, benissimo, perché è lì in montagna. Dove è uscito? Prego? Non lo capisco. No. Dico, è uscito? È andato a mungere le vacche, è uscito? Ah, non so niente. Ecco, ma anche lei è a favore della secessione, no? Per niente non vado a letto assieme, eh. Come dice? Come dice, scusi? No, per niente non vado a letto assieme. Non vado a letto assieme in che senso? Se mi ha chiesto se anch'io sono favorevole alla secessione, giustamente ti vado a letto e vuol dire che sono favorevole. Ah, dice, cioè io faccio l'amore con mio marito e sono favorevole alla secessione. Non so se lei ha la moglie, se è favorevole come lei. Sì, no, ma ha una sua logica anche questo, effettivamente, che uno fa l'amore solo se è a favore. Questa è la dichiarazione della moglie e dell'onorevole Boso. Ma sì, per amore si fa questo e altro. Lei se ha una moglie o un amoroso sarà uno. Ma è bravo l'onorevole Boso anche, diciamo, negli affari di letto, è bravo l'onorevole. Vabbè, altro che, forse meglio di tanti altri. Meglio di tanti, ho capito, signora. Senta, ma è lì in zona il signor Boso, magari? Cosa? No, se è in zona, dica all'onorevole Erminio che gli è caduta la linea prima, credo erroneamente, mentre parlava al telefono con me. Volevamo chiedergli due cose, insomma. No, qui non c'è adesso questo momento. Sarà andato a fare la secessione, evidentemente. No, sarà andato dove cazzo che golea, sinceramente. No, scusi, ma questo qua è proprio robe che non deve dire a lui. No, per carità, per carità. Bravo, arrivederci. Magari è andato a caccia di qualche immigrato, no? Perfetto.